Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno. Siamo sempre di più un paese produttore di beni intermedi, di macchinari, di cose ad alta tecnologia che non si vedono? Così sembrerebbe se si analizzano i dati della produzione industriale in Italia. I dati di novembre, che sono usciti adesso, hanno fatto molto discutere, perché sono dati che denunciano un notevole miglioramento. I dati danno un più 0,7% su base mensile di produzione industriale e un più 3,2% su base tendenziale, cioè rispetto all'anno prima. Se poi li scomponiamo, vediamo che dentro questo aumento della produzione industriale abbiamo un più 4,5% di macchinari, un più 4,6% di mezzi di trasporto, addirittura più 6,7% di PC ed elettronica, più 4,3% di metallurgia, più 2,1% di manifattura, più 1% di chimica. Invece va malissimo il tessile con un meno 5%, va male il legno carta con un meno 2,4% e purtroppo va male anche il farma con un meno 4,1%. Certo, questi dati, ricordo, più 0,7 su base mensile, più 3,2 su base tendenziale, sono viziati dall'energia che ha fatto un più 14,5% e che sta dentro la produzione industriale. Comunque, quello che io mi domando in questa trasmissione è come sta andando la nostra industria, come vanno letti questi dati, e giro la domanda ai nostri due ospiti, che sono il professor Patrizio Bianchi, uno dei più grandi economisti industriali che ci sono in Italia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E il professor Luca Beltrametti, direttore del Dipartimento di Economia dell'Università di Genova. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Patrizio Bianchi, siamo sempre di più un paese di beni intermedi, di macchinari? Beh, questi sono quelli, sono i dati sia sulla produzione industriale di novembre, ma sono anche ormai i dati di lungo periodo che noi leggiamo nelle esportazioni. Noi abbiamo visto in questo periodo che noi continuiamo ad esportare sempre di più macchine e macchinari, quindi tecnologie incorporate nei nostri beni, e dall'altra parte quella parte di beni di consumo che sono assolutamente di fascia altissima. In questo io metto dentro anche le automobili, perché se andiamo a scorporare le automobili vediamo in valore, vediamo che sono proprio le supercar quelle che tengono alto il nostro export e anche la nostra produzione. Certamente. E appunto però c'è un calo invece dei beni di consumo come tessile e abbigliamento. Beh, c'è innanzitutto il fatto che se noi scomponiamo i dati del prodotto, il prodotto interno lordo, tiene, anche se con qualche difficoltà, l'esportazione, e invece è un periodo di tempo molto lungo che i consumi interni continuano a registrare dei dati troppo bassi. D'altra parte è vero che sui beni di consumo che noi abbiamo, soprattutto su quelli di fascia media, abbiamo il massimo della concorrenza oggi internazionale. Quindi c'è un'indicazione molto chiara, anche se con dati ancora complessivamente da prendere con prudenza, che però indicano che il Paese, non nel mese di novembre, ma negli ultimi anni, si è spostato verso un Paese di macchine e di tecnologie e di prodotti di alta qualità e quindi di marchi. Certamente. Ecco, un dato che secondo me è interessante è che Federacciai ha fatto uscire dei risultati molto positivi della produzione di acciaio nel nostro paese. Dopo che nel 2015 c'era stato il peggior dato degli ultimi anni, la produzione di acciaio è tornata a crescere, con addirittura un 23 milioni di tonnellate, il 6% in più rispetto all'anno precedente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'anno precedente era stato un anno terribile, ma che comunque il sistema ha continuato ad aggiustare tant'è vero che se noi andiamo a scorporare anche questo dato, lei vedrà che le ghise, quindi il prodotto di base, continua a essere tutto sommato abbastanza fermo, e invece si sviluppano gli acciai speciali e quindi la capacità di generare più valore anche su un prodotto di base come l'acciaio. Cioè la capacità di trasformare un prodotto di base, quasi una commodity, in un intermedio qualificato di produzione, credo che sia il segno che spiega anche perché anche nell'acciaio c'è questa ripresa. Ripresa che va sempre presa con prudenza, sempre prudenti, però dà un'indicazione se non altro strategica. Ecco, quindi cambia la nostra natura di paese. Adesso sono anni che noi ci evolviamo verso gli intermedi piuttosto che verso i prodotti finali, però sì. Sulla congiuntura generale dobbiamo essere cauti, giusto? Sì, ma anche per un dato però, perché l'effetto della globalizzazione che continuerà, in questo ha ragione il presidente cinese, continuerà. Il vero dato di fondo è che per operare sul mercato globale, sui beni finali, lei ha bisogno di una catena del valore molto lunga, mentre dei prodotti intermedi, negli intermedi anche di qualità e soprattutto nelle macchine che sono sempre di più linee intere di produzione, la catena è molto più corta perché i nostri operatori si rivolgono direttamente alle imprese che sono in un numero più limitato. E quindi per imprese di media dimensione come la nostra è molto più facile operare sul mercato internazionale su questi prodotti, macchine, linee di produzione, tecnologie, piuttosto che non sul mercato finale in cui bisogna avere tanti negozi in tanti paesi. Certamente. Ma quindi l'imprenditore che è in ascolto, che suggerimento deve trarre da questo nuovo scenario per la sua attività? Ma guardi, gli insegnamenti sono molto chiari, sono quelli che tutto sommato in questi ultimi 10 anni sono emersi chiarissimi. Il primo è che l'Italia è un paese di manifattura e la manifattura, in particolare nelle macchine, richiede una grande capacità di ascolto dei bisogni del cliente. Se il cliente è un'altra impresa che a sua volta fa i beni di consumo finale, l'ascolto vuol dire guidarlo nella tecnologia. Le nostre imprese medie nel settore macchine sono capaci da tempo di fare linee su misura. Quindi se vuole il carattere fondante di Industria 4.0, la capacità di fare prodotti in grande volume ma personalizzati è già nel DNA delle nostre imprese. Quindi tecnologie ma applicate e personalizzate. Se uno fa dei beni invece di consumo, devono essere prodotti di alto valore aggiunto, di grande qualità, ma anche fortemente certificati e quindi con qualità accreditate, con qualità verificabili. Certamente. Ecco, ma Beltrametti che è in ascolto, di questo cambiamento di fisionomia dell'industria italiana, lei che cosa pensa? Sono d'accordo col professor Bianchi nel cogliere effettivamente dei segnali molto incoraggianti. Si tratta, come diceva Patrizio Bianchi, effettivamente ancora di segnali da confermare, nel senso che io non vedo ancora un'inversione di tendenza netta. Non dimentichiamoci che rispetto ai picchi del 2007 noi abbiamo perso come produzione industriale oltre un 20-25%. Certamente. Che in alcuni settori si spinge al 60%, 50%, esempio per il settore del legno. Quindi ci sono alcuni settori che da questa crisi escono abbastanza con le ossa rotte. Però ci sono effettivamente dei segnali incoraggianti e il fatto che questi segnali si concentrino sulla manifattura vera ci fa sperare che i nostri imprenditori abbiano effettivamente la capacità di cogliere il potenziale di queste tecnologie che stanno emergendo. Un pochino a me preoccupa il fatto che noi siamo forti in settori che, se il commercio internazionale dovesse ripiegarsi, sono esposti a forti pericoli. Ad esempio, gli ultimi dati sulla Cina ci dicono che c'è un calo abbastanza significativo nell'import cinese di prodotti intermedi. Quindi nel momento in cui la Cina rallentasse ulteriormente e sviluppasse una capacità interna di produrre certe componenti per la nostra impresa potrebbe essere una doccia fredda. Ecco, ma l'elezione di Trump da un lato concentra l'attenzione mondiale sulla manifattura e questo potrebbe essere un bene anche se l'aveva fatto Obama, dall'altro teorizzando un protezionismo potrebbe in realtà danneggiare la manifattura. Lei che ne pensa, Beltrametti? Ma effettivamente questa elezione di Trump fa riflettere, nel senso che Trump ha fatto i soldi, diciamo, nell'edilizia e poi nei casinò. Se andiamo a vedere tra gli sponsor della Clinton c'era tutta la Silicon Valley che conta. Cioè, in qualche misura io credo che la vittoria di Trump possa anche essere letta come un'America che, nonostante noi tutti guardiamo all'America come la frontiera tecnologica, il paradiso della modernità, è un paese che ha molta paura delle nuove tecnologie. E credo che la vittoria di Trump paradossalmente sia anche una vittoria di un paese impaurito con un settore manufatturiero che è arretrato troppo. L'America è passata in 15 anni dall'essere avere quasi il 28% del valore globale della manifattura ad avere meno del 20%. Ora, un paese come l'Italia si può anche permettere un dimagrimento così impetuoso, ma una potenza politica e militare non può realisticamente passare in 15 anni dal 28 al 19% del peso della manifattura mondiale. Però con Obama un pochino si è fatta una correzione di rotta. Certamente sì, però io credo che ci sia il segnale che questa globalizzazione ha prodotto dei frutti straordinari, che però non sono stati adeguatamente distribuiti e che hanno fatto vincitori e perdenti sia tra le famiglie, perché non dimentichiamo che il dato del reddito pro capite è vero che è cresciuto. Il reddito pro capite negli Stati Uniti è cresciuto dal 79 al 2013 dell'1,6% all'anno, il dato medio pro capite, ma possiamo anche evocare Trilussa, il dato mediano, cioè il dato, sì, c'è un impoverimento generale, solo dello 0,3%. Interromperci per gli avvisi sul traffico e la pubblicità, ma riprendiamo questa interessante conversazione fra qualche minuto. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con due grandi esperti di industria e di economia industriale, che sono Patrizio Bianchi e Luca Beltrametti, di come sarà l'industria italiana nel 2017. 2017 che si è aperto con dei dati che sono veramente positivi, perché è aumentata a novembre la produzione industriale su base mensile più 0,7% e su base tendenziale, cioè rispetto all'anno prima, più 3,2%. Inoltre il 18 gennaio Federacciai ha diffuso una nota nella quale denunciava l'aumento della produzione di acciaio al 6%, totale 23 milioni di tonnellate. Dunque tutto va bene, madama la marchesa, non è detto che sia così, e qui stiamo cercando di spiegare che cosa succede. Nella prima parte della trasmissione avevamo chiuso con una domanda che era: ma l'elezione di Trump farà bene o male alla manifattura mondiale? E qui l'amico Beltrametti aveva iniziato un discorso articolato da professore, ma mi dica un sì o un no, farà bene o farà male? Io ho paura che farà più male che bene, nel senso che ho paura che ci sarà un rallentamento del commercio mondiale, che ci sarà un rallentamento della crescita cinese, che ci sarà più difficoltà per i beni italiani ad essere esportati, ma spero tanto di sbagliarmi. Patrizio Bianchi, l'elezione di Trump che effetto provocherà alla manifattura mondiale e poi a quella italiana? Sì, faccio un passaggio anch'io su questo. Io credo che la vittoria di Trump, come la Brexit, sia stata una vittoria degli sconfitti, scusi il paradosso, però sono coloro che non sono riusciti a entrare in termini dinamici sui mercati mondiali che la cintura della ruggine, che in un qualche modo stanno tentando di tornare indietro. L'elezione di Trump farà male alla manifattura americana, perché la inchioderà comunque su tecnologie di bassa qualità, mentre tutta la parte di industria americana nuova in realtà comunque continuerà a essere globale e continuerà a dialogare con quei pezzi di industria che a livello mondiale sono capaci di essere applicatori, grandi applicatori. Questo vale dalle macchine a big data. Ecco, perché quella cosa che ha detto lui, che si è fatto troppo casino, parole povere, troppa propaganda sulle rinnovabili e sulle energie alternative, sul cambiamento climatico, ha delle implicazioni sulla manifattura, perché non va dimenticato che tutto il tema delle rinnovabili genera un'industria di hardware per le rinnovabili, un'industria nella quale la Cina e la Germania sono ai primi posti. E il tema anche dell'autonomia petrolifera ha portato allo shale gas, che poi è diventato anche shale oil. Se lui soffoca queste cose, deprime alcuni settori industriali sia in attualità e sia in potenza, no Bianchi? Guardi, dentro agli Stati Uniti oggi è in atto, io credo, un fortissimo scontro proprio fra le diverse industrie. Da una parte l'industria che ha attirato la crescita americana negli ultimi anni, che è, se vuole, il pezzo della California, il pezzo della iperinnovazione connessa con internet e con la connettività. Queste grandi imprese, da Amazon a Google, da Microsoft a tutti quelli connessi, in realtà vengono messi fra i nemici di Trump, che invece è un sostenitore della vecchia industria. Le ricordo però che, ad esempio, proprio parlando di shale gas, lo shale gas, per essere tirato fuori, richiede un costo per il barile molto alto, molto più alto che non anche altre energie alternative. Quindi io credo che lui in un qualche modo congelerà molto della capacità innovativa interna in una industria americana che ha già perso molti colpi. E dall'altra parte è vero il discorso della Cina, che secondo me è molto interessante. La Cina ha bisogno di continuare a crescere a livello mondiale, ha avuto un rallentamento interno, ma soprattutto si sta spostando lei stessa sulle produzioni ad alto valore aggiunto e ad alta tecnologia. Quindi sarà complessa. Il fatto che noi riusciamo a metterci in mezzo i due mondi credo che sia una partita difficilissima, ma non impossibile. Ma che cosa devono fare le aziende italiane che, se non erro, gli Stati Uniti sono il secondo mercato di esportazione delle nostre industrie? Devono preoccuparsi? Certo che si devono preoccupare, assolutamente, però è anche vero che se queste si muovono come si stanno muovendo su produzioni applicate, di forte applicazione tecnologica, molto personalizzate, io credo che sarà molto difficile mettere dei blocchi all'importazione di questi beni o tantomeno farli direttamente in America. Egualmente vale il settore automotive. Noi oggi nel settore automotive esportiamo dall'Italia essenzialmente le supercar, Ferrari, Maserati, Lamborghini, che per definizione non possono essere fatti in quel posto, non possono essere fatti in America. Quindi il problema è qual è la qualità e il contenuto intrinseco dei nostri beni che possono essere venduti lì. Dopodiché poi c'è un dato politico chiaro, che questa è un'operazione che dovrebbe coinvolgere tutta l'Europa, e quindi tutta l'Europa ha anche una capacità di negoziato, perché è chiaro che salta l'accordo interatlantico del commercio, il TTP, però è anche vero che egualmente una parte dei commerci più qualificati di prima, sia in un verso che nell'altro, devono continuare. Però non dimentichi che una parte dell'industria americana per definizione è ormai globale e non può essere ristretta all'interno del... Perché se, vi faccio un esempio, Google si ferma, Alibaba è pronta. Però molte aziende italiane si erano trasferite in Messico o stavano pianificando investimenti importanti in Messico, proprio perché il Messico ti dà la possibilità di raggiungere il mercato degli Stati Uniti. Adesso che Trump dice limitiamo il Messico, mo che succede? Questo è un altro tema. Noi spostavamo in Messico non certamente la punta delle nostre produzioni, la stessa produzione automobilistica, per tornare a questo caso, faceva in Messico le auto di piccola e media qualità. Io credo che anche questo rapporto con il Messico per un verso e col Canada sull'altro, nella maniera così propagandistica come Trump ha minacciato prima e attuato, credo che si attornerà molto, anche perché gran parte proprio dell'industria di media qualità statunitense oggi lavora in Messico. Cioè in Messico lei non trova la punta dell'industria americana, ma quella media, e quindi è con quella media, che è la sua base elettorale, che deve fare i conti. Ecco, volevo tornare un attimo a Beltrametti. Dunque, secondo lei, alla luce di tutti questi dati, come sta cambiando la nostra industria? La nostra industria ha delle punte di eccellenza, come abbiamo detto. Il cambiamento internazionale ci può penalizzare, ma ci può anche offrire delle opportunità. Penso per esempio al probabile venir meno dell'embargo alla Russia, che ci apre un immenso territorio, ci riapre, sui quali le imprese italiane avevano dimostrato in passato di muoversi molto bene. Cambia tutta la geopolitica, quindi probabile che il prezzo del petrolio risalga un po' rispetto ai minimi, e come si diceva prima, questo in termini geopolitici fa sì che lo shale gas americano torni ad essere competitivo, ma vuole anche dire che tutta l'industria, e l'Italia è abbastanza leader su questo terreno, dell'esplorazione di giacimenti petroliferi estremamente profondi, con tecnologie estremamente sofisticate. Se il prezzo del petrolio sale un pochino, diventa di nuovo di estrema attualità. Quindi, per esempio, su questo terreno, penso a Tenaris, l'Italia ha delle eccellenze assolute. Quindi, diciamo, è uno scenario che, come sempre, offre luci e ombre. Credo che complessivamente ci siano delle industrie d'eccellenza in grado di cogliere i frutti, ma mi preoccupa molto la tenuta del corpo intermedio e basso del nostro apparato industriale, che rischia di non tenere il passo. E però l'impatto occupazionale, l'impatto sociale di questo non tenere il passo rischia di essere molto pesante. Ecco, Patrizio Bianchi, ci sono migliaia di aziende in Italia, una parte consistente in termini percentuali, che non sono proprio competitive, che sono decotte. Io non sono così negativo, cioè condivido il parere di Beltrametti, perché mi sembra molto molto saggio il dire attenzione alle punte, ma vediamo dov'è il corpo centrale del nostro sistema. Io sono però convinto di questo, che certamente negli ultimi anni abbiamo avuto una divaricazione netta del paese, il paese che si è aggiustato a volte anche in anticipo rispetto ai concorrenti internazionali e oggi è leader, e dall'altra parte una parte del paese e anche le imprese che sono in questo che non ce l'hanno fatto. No, questo è lo spazio della politica, cioè lo spazio della politica è la capacità di ampliare il numero di coloro che ce la fanno, anche rigenerando filiere di imprese che sono in grado di operare insieme. Questo è il tema della politica industriale. Della politica industriale io ne parlerei per ore ed ore, anche perché ho appena scritto un libro, e qui mi si concederà un po' di autopubblicità, che si chiama Industriamo l'Italia, e che parla proprio di questo, oltre che delle nuove tecnologie. Però dobbiamo chiudere. Saluto Luca Beltrametti. Buongiorno, saluto Patrizio Bianchi, che ritroveremo ancora in future trasmissioni. Arrivederci Patrizio. Saluto gli ascoltatori, ci sentiamo domani alle 13:10 per una imperdibile puntata di Fabbrica 2.4. Buon sabato.